Radio Veneto. Un colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Amici di Blu Radio Veneto, buonasera a tutti e benvenuti come sempre all'appuntamento serale con Blu Time Live. Io sono Flavio Bilato, insieme a me Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, ancora serata live in questa sera di martedì 17 settembre del 2013. Ancora qualche giorno avremo mangiato anche questo mese. E diamo subito il benvenuto a un gruppo che ci è venuto a trovare dall'alto veneziano. Per non fare la solita musica impegnata che ci contraddistingue, Maurizio, abbiamo scelto questa sera di invitare un gruppo davvero particolare che in molti già conoscono, ma niente, le conoscenze non sono mai troppe. E quindi diamo il benvenuto ai Tira Tiracche. Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera, ciao, ciao. Buonasera agli ascoltatori. Scusate, ho detto ragazzi. Sì, sì, ragazzi, assolutamente sì, sì, ragazzi. Sì, sì, ok. Due ragazzi e due no. Due ragazzi. Nel senso e due che no. Non siamo ragazzi. Benissimo, siamo ragazzi. Certo. Allora salutiamo Attilio Boccalon, ciao, Augusto ciao. Prosdocimo. Ciao a tutti, buonasera. Che sono arrivati assieme a Giovanni Buoro e buonasera. Gianluca Chiarini. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, subito vi chiedo, ho fatto buon viaggio dall'Alto Veneziano a venire qua, all'autostrada, sappiamo com'è. Beh sì, buono questa sera, buono. Un po' di traffico, però insomma, sopportabile, però, dai. Però assolutamente sì. Sopportabile. Allora, Augusto e Attilio, voi siete i due, diciamo, protagonisti base dei Tira Tiracche. Esattamente. Nel senso che c'è una lunga storia. Molto lunga perché coincide anche con sì. La nostra lunga età, purtroppo. Sì, sì, sì, ecco. Parla no. Per chi. Ecco, benissimo. Ecco, subito. Già si comincia a capire com'è la trasmissione fino alle 22:30, poi sappiamo che i tiratiracche si mollano, come fanno proprio le tiracche. Esattamente. Perché dovete sapere, Augusto e Attilio, voi che siete anche avete dato il nome a questo gruppo. Tiratiracche, sì, le tiracche sono le bretelle. Le bretelle. Mi ricordo un fatto quando andavo alla scuola materna, che ancora ero quel bambino che viveva metà parlato in italiano e metà parlato in dialetto veneto, come dovrebbe essere anche ora, però mi sembra che ci sia più la valenza dell'italiano in questo caso. Allora ho chiesto alla suora in quel periodo: suora, mi tacca le tiracche? Allora lei mi ha insegnato a dire che si dice mi allaccia le bretelle. Quindi sono state due parole nuove. Immagino che dopo ti siano cadute i pantaloni, perché con le tiracche i sì, pantaloni sì, stanno sì, su bene, sì, con le bretelle sì, esemoe, come si dice? Esemoe. Benissimo. È proprio onomatopeico. Certo, certo. Il termine. Che certo. Parla difficile stasera, con magna pesante. Bene, bene. Non osiamo chiedere ad Attilio cosa ha gustato questa sera, ma noi andiamo avanti. Mi gusta allora, stare a chi? Mi gusta stare a chi? Benissimo. Ah, lo tacchiamo con le lingue. Anche spagnolo, oltre il dialetto veneto in questa serata. Allora, lui si è specializzato in sì. Segreterie telefoniche in lingue estere. Dopo, se vuoi, magari le fa un esempio. Bene, bene. Possiamo. Sì, solo anche... che alle volte non mi capisco neanche io. Benissimo. Dopo chiamerò a casa, magari adesso approfittando che Attilio non c'è, sentiamo cosa... Dopo vi faremo sentire la segreteria telefonica brasiliana. Liana dei Tira Tiracche. Yes. Benissimo. Allora, innanzitutto, come mai il nome Tira Tiracche? Tira Tiracche, guarda, è stata una questione soltanto sonora, perché ci piaceva il suono. Però, a dire la verità, noi siamo anche un po' i figli, siamo nati nell'epoca, diciamo, del primo benessere, negli anni 60, ecco, diciamo che agli inizi degli anni 60 noi eravamo bambini, quindi i nostri genitori, i nostri nonni hanno dovuto, in certe situazioni storiche, purtroppo per loro, tirare la cinghia. Noi invece, proprio a dimostrazione che il benessere stava giungendo pian pianino, non avevamo più la cinghia, ma avevano cominciato a comperarci le nostre piccole tiracchette, le bretelle, quindi non tiravamo cinghia, tiravamo le bretelle, ma diciamo che eravamo ancora in via di sviluppo, non eravamo ancora come dire, in una situazione di benessere totale. Non avevamo invece, ancora la pancetta. Invece di figli delle stelle, figli delle stalle. Ecco, sì. Per citare il buon Alan Sorrenti di una volta. Salutiamo Gianluca alle tastiere, che non arriva dall'alto veneziano. In realtà sono di Ravenna di nascita, ma sono un po' un napoletagnolo romagnoletano, insomma, in un qualche modo. Capito, quindi, sì. Un misto che ha vissuto anche a Treviso per un periodo. Già, quindi volevo chiederti come mai appunto l'incontro con Tira Tiracche. Ma in realtà ero un vecchio sodalizio, avevo un sodalizio con Giovanni Buoro che suona la chitarra e suonavamo il jazz in qualche piazza, in qualche situazione varia, in qualche baccaro veneziano. E locali vari, insomma, e dopo mi ha intortato, come si dice dalle mie parti, in questa situazione. Sì. Quindi dal jazz al jazz, come si dice. No? realtà, per svelare gli altarini, va detto che loro due sono due grandi musicisti, due jazzisti e non solo. E ancora io e Attilio ci stiamo chiedendo se stiano con noi perché così vogliono offrirci la loro musica o perché noi offriamo loro molta birra dopo le serate. Cioè, non si è capito ancora il motivo reale, perché sì. Anche perché non li paghiamo mai. E quindi questa è la nota dolente, diciamo, che riguarda sempre i musicisti, ma in questa serata così ilare vediamo di non toccare il tasto. Diciamo, ma il vito è sempre buono, quindi il vito è talmente buono che non ci si può rinunciare alla fine. San Vito molte volte, vero? Benissimo. Allora, Tira Tiracche in questa serata per presentarci il loro lavoro che si intitola Cren, le canzoni che si sentono anche nel naso, e poi per darci un excursus di quella che è stata la loro attività prima di questo disco e quello che sarà il loro prossimissimo futuro. Allora, se siete d'accordo, andiamo subito a presentare quella che è la musica dei Tira Tiracche, facendo ascoltare giusto quella che è la sigla che contraddistingue gli spettacoli di Tira Tiracche. Eccoli qua. Se la moda la te impone de sbassare le braghesse, coi mudande par de fora par far vedere che ti ha messe. Se è successo par disgrazia, però dime che figura. Col segarotto in mezzo a piazza la cintura. Che se chi che parla ben però mi ciaro non è vero, quando che vuol farmi credere che il signor le morda il freno, sogna e spera la bambina di andar fare la velina. E somare la compagna parmanina. Tira Tiracche, tirate su, se la vita la sei dura, no va a stringer la cintura. Tira Tiracche, tira campate, sto mondo de promesse, mai calare le braghese. Se anche a chi che se dispera, altri che par ver sta grazia, pregaria mattina e sera. Chi so che li gaccia vai, poi li porta a Dubai. Con la scusa che a pensione non basta mai. Chi se fa tirar le frise par paura di impeciare, chi se fa sgionfar le tete in tv le vuol mostrare, chi va a farsi massaggiare da un'esperta d'oltremar, par che dice che la sa dove tocca. Tira Tiracche, tirate su, se la vita la sei dura, no va a stringer la cintura. Tira Tiracche, tira campate, sto mondo de promesse, mai calare le braghese. tira, tira che tirate su, se la vita la sei dura, non va a stringer la cintura. Tira, tira che tira campà, de sto mondo de promesse, mai calare le braghese. Blue Time Live, Blue Time. Live. Ancora con Blue Time Live, sempre con Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. In questa serata abbiamo i Tira Tira che sono venuti a trovarci per presentarci il loro nuovo lavoro che si intitola Cren, ma anche per parlarci di quelli che sono stati i loro progetti passati e per darci qualche anticipazione del futuro. E abbiamo ascoltato questo brano Tira Tira che proprio affronta tutta l'argomentazione social, politica, culturale, economica, eccetera, eccetera, di quello che è il nostro paese, il tutto concentrato in 3 minuti e 30 di canzone. Augusto, Attilio, come è nata questa vostra presentazione in sintesi? Una specie di un vostro curriculum vitae, diciamo. Ben, più che un nostro curriculum vitae è proprio uno sguardo sulla vita in generale. Sulla vita intendo non la vita, ma la vita è proprio quella, sì, del campo dietro casa. Che dove... poi dalle vostre parti ce ne sono anche parecchi. Sì, no? È di ottima qualità. Nel senso che certe canzoni non ci si spiega bene come nascono, come capitano in mente, più che altro però sono figlie di un lavoro di osservazione che facciamo nel nostro territorio. Prima di tutto osserviamo, ma anche involontariamente, perché certe scene si presentano ai nostri occhi e cerchiamo poi di renderle in maniera ironica, di restituirle al pubblico in maniera ironica, anche perché per dare loro una chiave diversa di lettura di eventi che capitano. Dicevo, eventi che capitano nel circondario nostro, ma anche, come nel caso della canzone che avete appena fatto sentire, eventi insomma che riguardano un po' la vita di tutti, anche a livello più ampio, a livello nazionale. Musicalmente, caro Flavio, a me sentivo l'inizio di Pimbo Wizard degli U con la chitarra, sì, acustica. Certo. Come mai, caro, avete deciso questa idea? Mi dicevi che era il pianoforte inizialmente. Inizialmente sì, c'era un inizio un po' loffio al pianoforte. Proprio perché l'inizio era loffio al pianoforte, abbiamo deciso di rifarlo con la chitarra. Allora, come avrete capito, tira tira, che Maurizio dovrà affrontare il tema internazionale di quella che è la musica, la musicalità veneta. Quindi cioè, assolutamente degli esempi, vedrete che dopo gli Who tirerà fuori anche Bob Dylan. Ma troverai, no? Un po' di tutto. E poi un po' di tutto, un po' di tutta quella che è la musica che normalmente ascoltano. Sì, ma anche perché noi originariamente siamo nati musicalmente proprio nell'isola di Wight. Bello, bello, bellissimo. Sì, lui mi guarda con fare un po' lo guardavo perché ero sicuro che stasera non ci eravamo fermati in nessun autogrill, in nessuna osteria, in nessun bar, per cui che l'effetto postumo della bevanda che ho assunto perenne, la bevuta perenne, c'ha un flebo nascosto da qualche parte. Lo porto sempre dietro, è mini, però funziona, di cui non un si mignon, nota, no, no. Ha la camicia un po' rigonfia da sì, una sì parte, ma non sono le no quelle no quelle no. No, da una parte. Benissimo. Allora, tira tira che voi nella vostra cultura popolare vi considerate più cantastorie o contastorie? Una bella domanda. Ammesso che ci sia una spiegazione al tutto, Augusto. Diciamo che siamo forse più contastorie, ma anche canzoniamo più che cantiamo, sì. Più che canzoni facciamo canzononi, non so come definirle. Canzoni grandi, grandi, esatto. Allargate praticamente, sì. Canzoni allargate. No, voleva dire canzoni che prendono in giro. Sì, beh sì, anche quello, anche quello. Bonariamente ma però. Senza offendere. Cioè, però, senza offendere. Ci siamo proprio posti all'inizio del nostro lavoro, del nostro sodalizio, così di cercare di fare dei testi possibilmente non volgari, magari coloriti, perché noi scriviamo in dialetto e cantiamo in dialetto, per cui il dialetto include in sé anche una certa coloritura del linguaggio. Dobbiamo, certo, prendere il linguaggio del nonno, non è che il nonno parli con l'accento francese. Non forbito, allora, sì. Come te magna, come si dice. Vabbè, anche a volte un po' peggio. Beh, però ecco, abbiamo cercato di rimanere contenuti in questo, quindi il linguaggio si rifà a queste forme di comunicazione che sentiamo attorno a noi, del passato, ma non solo del passato, perché avevamo, a dire la verità, iniziato ricalcando un po' eventi del passato, cercando di metterli a confronto con gli eventi di oggi. Poi ci siamo accorti che questo è un lavoro che si faceva da tempo, che molti hanno fatto, che molti hanno fatto anche meglio di noi, e allora abbiamo rovesciato un po' la questione. Ci siamo posti dalla parte quasi del passato che osserva l'attualità. E che cosa succede? Che impressione fa l'attualità a un ipotetico nonno che si ritrova a confrontarla con la sua storia, con la sua vita? Solo che, essendo nati 30 anni fa, siamo già diventati passato noi. Sì, sì, un po' nel tuo caso passato da verdura. No, va bene, dai, sapevo che te metti male. Io oserei dire passito. Buonissimo. Siamo già migliore, bravo. Sì. Scrivi, metti da parte, ti mandiamo un gettone SIAE. Sì, grazie. No, perché si diceva che i nonni amavano molto il cabernet, invece i giovani d'oggi l'internet, no? Sì. Quindi una battuta che ormai si sente. O anche il cabaret. No, anche il cabaret. E in questo caso, allora, lo spettacolo Tira Tiracche è solo basato su musica, su racconti, o ci sono anche delle pause riservate a degli sketch? Sì, beh, è chiaro che prima di iniziare a cantare facciamo un po' di ciaccole, come si dice, sì, io, sì, e Augusto, raccontando un po' quella che può essere la canzone che andremo ad eseguire, insomma, quindi. Benissimo. Qua mi inserisco un po' io, perché Attilio, per modestia, non, sì, dice che c'è una chiave fondamentale nelle nostre ciacole. Le nostre ciacole ruotano proprio attorno alla sua grande gestualità. Qui siamo in radio e non si vede la faccia di Attilio, ed è già, sì, un vantaggio per gli ascoltatori. Certo. Però non la tua. Vabbè. Però non si vedono i gesti che lui fa, perché lui è un po' una marionetta. Il bravo cantautore Talian, sì, nel senso che canta in dialetto veneto-brasiliano, Valmor Marasca, una volta vedendolo gli ha fatto, credo, uno dei più bei complimenti a Tiglio. Sì. Gli ha detto, ma tu non mi sembri una persona, mi sembri un cartone animato vivente. Ecco, io direi che questo complimento di Marasca potrebbe rimanere proprio il biglietto da visita di Attilio. Bene, ecco, quindi rubato direttamente alla Walt Disney, esatto, per diventare un cartone animato. È un po' avanti con l'età, un po' dinoccolato per via di acciacchi, ossei vari. Però rendo bene ancora. Vabbè, allora vediamo, facciamo una prova. Se dovessi, sì, io lasciarvi il microfono aperto per presentare il primo pezzo che ci dedicate in studio, da dove cominciamo? Il primo pezzo che vi dedichiamo in studio è un pezzo che ricalca una figura che si sentiva passare un tempo per le nostre strade, ed era comodissimo anche, perché a volte noi crediamo che il progresso ci abbia portato dei vantaggi, ma non è vero, perché per esempio la spesa adesso noi dobbiamo andarla a fare, no? Andiamo lì col carrello, facciamo la fila, dobbiamo inserire la moneta nel carrellino, così. Una volta era di una comodità incredibile, perché era la spesa che veniva a casa tua e si annunciava, anche era sonora, la sentivi arrivare da lontano e faceva più o meno così. E se ci amava Toni, e vendeva i pomi, e che aveva un tradico che dava a far miracolo, e come arrivava sola ne ha passata tutte le femmine e lo ospitava. Toni, pomi, peri, naranze, limoni. Toni, Toni, pomi, peri, naranze, limoni. E c'era onesto Toni, vendeva i pomi, se c'era un Dio crescente non faceva niente, e se battarne e cadeva il pish, lui faceva l'occhetto. Aranze limoni, Toni, Toni, pomi per in aranze limoni, e anche noi altri fiori si aspettava il zio Bar, che arrivava Toni col suo biroccino, se che correva intorno. Facevano la festa e lui ne regalava le mandarine a testa. Toni, Toni, pomi per in aranze limoni. Toni, Toni, pomi per in aranze limoni. Tagliava su per una strada bassa che a porta dritta dritta a casa della Maria, che c'era tanto bea e assomigliava un fior, e tutti si battoni e andava a far l'amore. Toni, pomi per in aranze limoni, Toni, Toni, pomi per in aranze limoni, Toni, Toni, pomi per in aranze limoni, Toni, Toni, pomi per in aranze limoni. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Siamo ascoltati questo primo pezzo dal vivo dei Tira Tira, che qui in diretta Blu Radio Veneto, con questo Toni El Pomaro, questa figura del venditore ambulante di frutta e verdura, praticamente scomparso. Adesso non ci sono più né gli Apecar con questi contenitori di frutta e di verdura, e nemmeno i camioncini con tanto di persona dietro a gridare appunto presto Maria che il pomaro va via, come si diceva, oppure all'inglese hurry up Mary the apple man goes away, vuol dire sempre la stessa cosa. È inventato. Adesso arrivano i furgoncini della Bofrost, tutto pronto? Sì, è vero. Bene, sì, tra Bofo... adesso ricordiamo anche il concorrente per par condicio. Eichmann. Sì, benissimo, quindi abbiamo ricordato tutti. Salutiamo tutti gli omini furgonati che ci fanno visita per strada, che stasera si stanno meritando una pausa ascoltando anche la radio. Perché no? Perché no? Perché sì, anzi, Blu Radio Veneto, Blu Time Live con i Tira Tiracche fino alle 22:30. Allora, questa figura del Pomaro, ma ci sono molte altre figure che voi avete voluto prendere, proprio che parla di tutta la vita che c'è intorno a voi, come si diceva prima. E ci sono molte canzoni, in particolare in questo CREN ci sono 13 canzoni più una 14ª traccia che si intitola Veline e Velinette. Sì, la quattordicesima traccia è un ricordo di un caro amico che ci piace ricordare anche in questa occasione. Si chiama Lionello Fioretti, un poeta bravissimo, che ha scritto anche i testi di un altro nostro lavoro che si intitola Maschere Randage tra Dogaresse, Carampane e Contrado, che vi abbiamo portato, ma stasera non sentiremo perché appunto è un disco teatrale con musiche originali scritte da Giovanni Buoro e appunto i testi scritti da Lionello Fioretti. Ecco, Lionello Fioretti poco prima di mancare, mi ricordo, mi dettò al telefono il testo di questa canzone dicendomi: vedi se riesci a farci una musica. Io la musica l'ho fatta, lui purtroppo non ce l'ha fatta a sentirla, ma sono certo che gli sarebbe piaciuta. A proposito di teatro, c'è una leggenda metropolitana, non proprio una leggenda metropolitana, come tu hai conosciuto il nostro teatrante praticamente. Vuoi raccontare questa leggenda? L'ho conosciuto proprio a teatro. A teatro, ma però in quale occasione? Mentre lui faceva una cosa drammatica, ma non era stanco di fare la cosa drammatica. Intanto è così? Devo dirti una cosa spaventosa, perché, come dire, devo dirti che ci siamo conosciuti all'epoca del liceo. Quindi proprio non quando i mulini erano bianchi, quando dovevano ancora costruirli. E mi ricordo che una sera il mio professore di italiano ci disse: venite ragazzi a vedere una rappresentazione teatrale scritta da un vostro coetaneo con dei bravi attori coetanei, così noi andammo. E adesso lascio raccontare a te come si svolse la vicenda. Lui è venuto ad assistere a questa sostanzialmente tragedia, e poi sotto l'influsso malefico dello zio è diventata una farsa, una comica. Sì, ma Attilio, com'è stato il momento in cui hai cominciato a ridere, o meglio hai fatto ridere tutto il pubblico? Ma con una battuta nei confronti di una mia conterranea che recitava con me, che era piccolo di cognome e anche di fatto. Salutiamo Cecilia, Cecilia non ce l'abbiamo con te, ma... E ho fatto una battuta alla Cocchi e Renato, no? Perché lei mostrava sostanzialmente che in un tavolo inesistente che c'era di tutto e anche di più. E io mi sono azzardato a dirle: guarda che ti strongo la carriera. E lei è rimasta un po' male. E questo pezzo che è qui vicino a me ha detto: occo cane. Questo è la persona che fa mio. Ho pensato: dimmi. Uno che si permette di rovinare mesi e mesi di lavoro, certo, di una compagnia di ragazzi, e poi i ragazzi ci mettono il cuore e l'anima, così nel momento clou della serata, e gli viene voglia di fare una battuta scema, perché la battuta era scema, ma è chiaro che ha smontato tutto il vuol dire che è stofa. Sì, ho detto: oh, è un genio o è scemo del tutto. Allora questo lo voglio conoscere. Poi col tempo mi sono accorto che non era un genio, ma ormai me l'ero... No, non ero genio, ero Eugenio all'epoca, avevo un altro nome. Aveva anche cambiato nome, sì, tra altre cose. Sì. Benissimo, allora Augusto, Attilio, facciamo ancora per sapere se è scappato qualcuno o no. Gianluca c'è, Giovanni anche ci sono. E, allora, correva l'anno 2004, sì. Correva forte già? No. E allora, scusate l'articolo. C'era un disco che faceva parte del vostro repertorio. Cambusa Dancing lo direbbero gli inglesi. Esattamente. Invece voi? Cambusa Dancing. Cambusa Dancing. Ed era un posto reale. Il Cambusa Dancing era in pratica la balera che negli anni 60 un gestore di un'osteria del mio paese aveva pensato, con molta furbizia, di allestire. Quindi una delle prime balere accanto al suo bar aveva praticamente fatto una gettata di cemento contornata con degli alberi, così un muretto di separazione, e là i fine settimana ci andava. Era l'epoca, diciamo, sempre anni 60, quindi c'era già una parte della popolazione contadina che era impiegata nelle prime industrie, quindi certo, l'epoca della metalmezzadria. Questi qua perciò arrivavano con ogni mezzo possibile, col motorin, col trattore, esattamente, portando, come diciamo nella canzone, anche la flore della campagna, oltre che insomma i loro modi. Ed era bellissimo perché attorno a questo muretto di recinzione del Cambusa Dancing, pronunciato rigorosamente così perché così la scritta diceva: vado al Cambusa Dancing stasera, vieni tu, dai Tony, dai, che la sei belle tose. Ma le belle tose erano tutte quante, come dire, accompagnate dalle belle mame o dalle belle nonne. Perciò per raggiungere la tosa, la ragazza, c'era tutta questa prassi da fare, ste nonne, ste mamme in batteria che schieravano dall'alto al basso il ragazzo per mettere un ballo, e più delle volte insomma il ragazzo magari si trovava a ballare tra delori, o qua nona. Una mazurka. Anche perché si usa dire nona sia per appunto l'accompagnatrice, sia per un po' che si è un po' bevuti, un po' rallentati, sì, nei movimenti, esatto, della serie Ghetto Nona, no? Però Ghetto Nona. Avevano un vantaggio questi locali, sì, che la musica era rigorosamente suonata dal vivo, con dei complessini che avevano dei nomi incredibili, i robot, i lunatici, le robe più strane, il repertorio era, vabbè, quello degli anni 60, suonato alla va che ti va, sì, però c'era sincero divertimento, c'era veramente la gioia del divertirsi col poco. Io credo che i nostri papà, i nostri zii abbiano passato dei bei momenti in luoghi come il Cambusa Dancin, e tanti amori saranno nati. Certo, dove c'erano i gruppi che avevano 10 canzoni e ognuna di queste 10 canzoni veniva suonata perlomeno 3 volte, per un totale di 30 volte per completare la serata. Anche 4 le volte. Anche 4 volte, vedi? Se gli piaceva faceva la richiesta. La richiesta, certo, certo. Un'altra volta che non ho finito di combinarsi. Benissimo, quindi sappiamo sempre cose nuove di quello che è stato il nostro passato, quando io e Maurizio eravamo ancora piccolini, però già a te Augusto, scusa, e io tu, ero piccolino. Tu eri piccolino. Tu sei dell'attacca di Augusto e Attilio. Un quindi... pochettino più. Un pochettino. Vabbè, più. Non andiamo oltre. Allora, ci ascoltiamo questo pezzo, si intitola Cambusa Dancing del 2004. Eccolo qua. E tornando in corriera, posse l'eserme il tex, la me vita imprestata al reparto montaggio fornei di Arex. Le suona la sirena, n'antro venere sera, e me mare prepara le braghe stirate che vado in balera. Parche la libertà, che in giro la tanti nomi, in testa terra senza confini, la se chiama Cambusa Dancing. E anche la giovinezza, che in giro la tanti musi, che la scorre come bevervi, la se ferma il Cambusa Dancing. C'è chi senza pudor viva qua col trador, ma del proprio lavoro non trascura il sudore, e la pista si infiamma tra una rumba e un caschetto, col permesso della mamma vuoi ballare con me. Buonasera signorina, vuol ballare con me? No. La mamma magari un valserino? No. E allora la nonna forse? La mazurchetta? No. Problemi? Femore roto? Oh, la mia scusa, la mia salute il nonno, tante cose. E la sera la scampa, no a vol farsi giappà, anche i piopi che fa da cornice alla pista sommeia va. O l'orchestra si calma e se sbassa anche il vento, e me man sui soffianchi le strenze più forte par l'ultimo lento. Parche la libertà, che in giro la tanti nomi, in testa terra dei contadi, ma se chiama Cambusa Dancing. E anche la giovinezza, che in giro la tanti musi, e che la scorre come bevervi, ma se ferma il Cambusa Dancing. Parche la libertà, che in giro la tanti nomi, in testa terra dei contadi, la se chiama Cambusa Dancing, la se chiama Cambusa Dancing, la se chiama Cambusa Dancing. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E quindi abbiamo rivissuto anche quella che è la storia di Cambusa Dancin, canzoni d'autore nel Veneto orientale, così si chiamava, volume 7, scusate, così si chiamava quest'album del 2004, dove i protagonisti sono loro. Li abbiamo fortunatamente in studio con noi, sono i Tira Tira, che ancora grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, abbiamo parlato del 2004, quindi con le canzoni dialettali, ma Tira Tira che prossimamente non sarà solo canzone dialettale. Augusto? No, prossimamente, dopo parecchi anni, abbiamo pensato di mettere assieme delle canzoni che c'erano venute così in lingua italiana e metterle assieme in un disco. Sono canzoni però... non solo dei Tira Tira, che non solo, diciamo, composte da me e da Attilio, ma anche composte da Gianluca Chiarini, che è qui con noi, sono raccolte in un disco di prossima uscita che si intitolerà... Sarà un titolo tipo che riguarda il contrario della resistenza, la desistenza, mi pare, no? Una roba del genere. Sono canti della desistenza. Perché ormai bisogna desistere. Siamo alla frutta. Siamo alla frutta degli ideali ormai, sì, della società, allora si cerca di sottolineare questo carattere un po' che smolla un po' tutte le barriere del poter... appunto avere un proprio appiglio, reagire in qualche modo al sì, ma appunto scrivendo questi canti della desistenza vogliamo dire che non bisogna desistere, assolutamente. Sì, è un po' un'ironia sull'andazzo attuale, insomma. Esattamente. Quindi un messaggio forte anche con testi socialmente impegnati, allora, a questo punto. Disimpegnati. No, sì, perché appunto desimpegnati, no? Quindi, bene. Musicalmente come verrà? Adesso lo sentiamo, ma in generale, ti devo correggere, dimmi. Adesso non sentiremo questo, perché i Tira Tira che sono generalmente lavativi non voglio fare niente, sono rimasti fermi per molti anni. Adesso si sono rimessi al lavoro con due nuovi dischi. Ah, due nuovi Quindi progetti. Questo è quello in italiano, di cui ancora non sentiamo nessun esempio, perché dobbiamo metterlo a posto. Mentre qualcosa possiamo sentire dall'altro progetto che stiamo registrando con Giovanni Buoro, gli arrangiamenti sono suoi, ed è il nuovo disco in dialetto dei Tira Tira, del quale possiamo dire anche il titolo. Se perché sì, è già stato prodotto e si intitola Se il mare fosse de Tokyo. Quindi sì, Tokyo inteso come città del Giappone, inteso come quest'idea di questa idea positiva di apertura un po' globale al mondo. Sì, adesso c'è il discorso della globalità, esatto, quindi... Ma una globalità quando non è una globalità ben venga, voglio dire, ma quando non è gestita proprio alla grande, si può confondere in maniera confusa, scusate il gioco di parole, con la nostra tradizione. Allora ne nascono delle curiosità, delle situazioni curiose che noi abbiamo voluto raccogliere in questo repertorio di nuove canzoni. Ma se il mare è di Tokyo, i monti? I monti del poliester. Di poliester. Eccolo. Oi mamma che tociade, la polentina col sushi, quindi ecco. Quello che ho cercato di introdurre in maniera un po' maldestra prima si riassume molto meglio, ecco. Uno che scrive canzoni in realtà non dovrebbe neanche tanto parlare. No, è vero. Cantare. Comunque, dovrebbe cantare... A Tokyo c'è un binomio giusto, te dire. Se mangia bene, in Giappone. Sì. Benissimo, allora, per chi è stato in Giappone a mangiare, sì, Beato lui che prova. Ecco, benissimo. Allora, Tira Tira, abbiamo un'altra canzoncina che ci porta lontano dal Veneto, ma pur sempre vicino ai cuori di tutti. Stiamo parlando di Andare a Santo Domingo. Ah, beh, questa è una canzoncina. Ecco, quando prima ho fatto un discorso riferito alle necessarie coloriture del linguaggio, ecco, qua ne abbiamo un esempio, ma la canzone vuole così fare il punto, ironizzare su questo fenomeno, purtroppo per niente piacevole e bello, del turismo sessuale che ha coinvolto molto anche il nostro Veneto. Ecco, se si va in alcune zone del mondo, lo sappiamo bene che c'è un'altissima percentuale di presenza italiana. Ecco, allora noi, sempre alla nostra maniera, abbiamo voluto così dire la nostra con questa canzoncina che presenta il personaggio, ecco, perché poi questi personaggi li vediamo attorno a noi e più o meno fanno così, insomma. Guarda che c'è pa' una telefonata, sai, mi ha capito, no? Una telefonata, vabbè. 4 della mattina. Chio che te c'ha Mattia, è 4 della mattina. È giusto che mi chiama, 4 della mattina, una ciccina, no, capito, allora mi sono svegliato subito, ho preso su due cose veloci, c'ho pa' 16 valvole, Dove sono andato? Fondare il Cambusa Dancing. Ma cos'hai sto Cambusa Dancing che tu ti vuoi andare al Cambusa Dancing? Cambusa Dancing è femmine che va su per i pai come i simioti, da caro, vieni caro, fai vedere mia. No, guarda, amico, ti non vengono su senti posti. Sta a casa che mangiare, guarda, guardate che mangiare geato. No, va che ti, sì. Ha avuto che... Dai, vieni lì che ti faccio... No, ti ho detto che amico ti non vengono. Allora, sono un bel posto, caldo, profumato. Due complimenti oggetto tasteggiare. So minte che posti che te va, ci demo. Sono andato a stare cubane. Basta che te vai qua, ci vi dal del Friul, che ne trova cubane, no, finché te vuoi. Quelle te mangi a te, mi voglio quelle tostate al Mar dei Caraibi, Cristo, dai. Ma mi pare che te c'era andare anche in Russia, se non sbaglio. Sì, ma là mi sono un animale, come si dice? Esotico. Esotico. Ah. Là fa freddo, cioè in Russia. Freddo, batte i denti anche al pettine, sarà in Russia. Sì, sì. Comunque, vien che te faccio vedere. Dovit che continuo vegne, e ora canta, dai. Andaremo a Santo Domingo, in Brasile, a Cuba, in Argentina, troveremo la ciccina che in Italia non l'avem trovata. Troveremo la ciccina che in Italia non l'avem trovata. Imbrana, imbrana, te son proprio un imbrana. Se tre volte bom, el gaisho machinon, el gai telefonin, el caveo col codin. Al dice mi so figo, mi so della sabona, però sappiamo tutti che quel figo è un fiammona. Allora? Semplice. Andaremo a Santo Domingo, in Brasile, a Cuba, in Argentina, troveremo la ciccina che in Italia non l'avem trova. Troveremo la ciccina che in Italia non l'avem trova. In brana, in brana, adesso è proprio un'imbrana. Torna dopo un mese, spompa quelle cesare, portando se una gnocca con l'abito nuziale. E ma il sogno dura poco, per chi non ha capito che cose bea sgionfa e a coe un bat torna in drio. Il merlo se resta becco, come farà beccar, beccar, beccar? Allora, la mese scampata, sta brutta disgraziata, pensa che avevo comprato l'anello e il vestito da sposa, che avevo aperto anche il conto in banca, ma che avevo detto anche che mi andava bianco. Mi sa che ti ha confuso i colori, figlio. Ma guarda se sa da vedere un tipo figo come ti, sempre in giro per il mondo, che se perde per queste robe qua. Ah beh, guarda che il rimedio è semplice. Usato sicuro si trova sempre. Ma sì, dai. E allora dai, forza. Tornaremo a Santo Domingo, in Brasile, a Cuba, in Argentina, troveremo la cicina che in Italia non avevamo trovato. Troveremo la cicina che in Italia non avevamo trovato. Imbrana, imbrana, te so proprio un'imbrana, imbrana, imbrana, te so proprio un'imbrana, imbrana, non te sa che in tutto il mondo sei come qua, parla in Russia, cerca in Congo, ma la cicina l'hai messa sempre per Longo. Blu Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Consigliato l'ascolto sul divano e con una bella ombra in corpo, già benissimo. Allora abbiamo ascoltato i Tira Tiracche con questo Andare a Santo Domingo, con le espressioni colorite ma divertenti, diciamo che c'è anche un po' di licenza poetica, diciamo, nelle canzoni. Quello che magari non si può dire parlando, ma nella canzone viene fuori. È giusto, ci sia un po' di licenza, vero Augusto? Cosa dici? Beh, assolutamente, insomma, se non ci concedete queste licenze poetiche, allora insomma bisogna... Allora tutti casa. Rimandati ad ottobre. un po' alla Cocchi Renato, cosa sì, dite? Ecco, questo sì, c'è qualche immagine musicale di Cocchi Renato, ma è giusto, non è mica una cosa cattiva. Beh, che l'età a cui si appunto accennava prima ne consente, ci ecco, porta. Di avere un bacino di affluenza, soprattutto di ottimi esempi, ecco. Però il famoso ti stronco la carriera che mi ha fatto conoscere Augusto, c'è sta proprio una battuta di Cocchi Renato. E quindi vedi tu che bene. La citazione era dovuta. E quindi normalmente noi alle band che vengono qui in studio chiediamo quali sono gli artisti di riferimento, intendendo per artisti quelli che poi magari potrà citare Gianluca o Giovanni, tipo un chitarrista, Jimi Hendrix per farla, un pianista, che Jarrett per esempio. Però Augusto e Attilio, che artisti di riferimento hanno? Beh, uno è già stato nominato sì. prima dal tuo collega. Sì, a microfono spento però. A microfono spento, esattamente. Adesso che possiamo citare, è Enzo Iannacci. Ah, ecco. Fantastico. Io diciamo che ho cominciato a strimpellare la chitarra, così grazie a Enzo Iannacci e a Giorgio Gaber. Quindi Enzo Iannacci poi era esattamente proprio quello, era nella cerchia poi anche di Cocchi Renato, certo. Quindi questo ambiente era proprio la fonte famoso derby di Milano. Famoso derby, esattamente, insomma, così io poi ho cominciato. Poi naturalmente ho cercato di come dicevo prima, di guardarmi attorno e di calare nella mia realtà queste immagini che venivano così magistralmente narrate e cantate da questi grandi maestri che non dimenticheremo mai. Esatto. Attilio. E io invece, che vengo un po' più da un'estrazione teatrale, ma comunque insomma mi è sempre piaciuto di più il teatro, diciamo un po' brillante rispetto a quello... Un po' più impegnato. Sì. Li ho frequentati tutti e due, però insomma brillante ci riesco meglio. E quindi l'incontro è stato anche così dovuto un po' dalla musica, un po' dal teatro, perché per esempio a me è sempre piaciuto tipo i Goofy, Dario Fo, insomma. Se lo vedeste in questo momento capireste anche perché ha fatto riferimento ai Goofy, perché lui in realtà è l'incarnazione di Felice Andreani. Non parliamo dei Goofy gruppo, proprio del gufo uccello. E poi visto che comunque c'è un assemblaggio di musica e teatro, insomma, per noi è stato anche facile incontrarsi, amalgamare un po' le cose. parte il fatto che Augusto ha una grandissima conoscenza umoristica, per cui insomma gli viene facile anche riuscire a tramutare parecchie immagini che si vedono e che normalmente magari... Bisogna che lo porti in radio per sentirmi dirsi i complimenti, sì, perché generalmente guarda che proprio non si smuove da un attimo. Via una scatola del Bostic dopo tanto. E il discorso di Nodi al pettine nasce da quel periodo là? Io non ho partecipato a Nodi al pettine, è lui però lui c'era il cabaret Nodi al pettine, assolutamente. Nodi al pettine è stato il primo gruppo proprio che avevamo fondato, ma Nodi al pettine è stato veramente uno scendere in campo di battaglia, perché avevamo la sfrontatezza e il coraggio, io e l'amico Orazio Zanni, lo saluto e... se mi piace ricordarlo, perché questa cosa è nata proprio anche grazie a questo amico Orazio. Avevamo proprio la sfrontatezza e il coraggio di affrontare queste arene, si può dire, perché le discoteche degli anni 80 erano una cosa terribile, erano affollatissime di giovani scatenati. A un certo punto questi punci punci punci punci ballavano, il disc jockey diceva: ehi ragazzi, fermi tutti, perché questa sera abbiamo con noi un duo meraviglioso, i Nodi al pettine, Augusto e Orazio. E noi sentiamo là questi qua bu bu, cioè nove dise veramente. Poi giustamente i nodi sono arrivati al pettine e ci siamo sciolti e... Però erano bravi. Era un inizio interessante, vero? Sì, è stato un amore che io ho sempre manifestato per queste cose, per l'umorismo, ma anche per la letteratura umanistica cosiddetta minore, e minore non è. E mi piace citare il grande Marcello Marchesi, mi piace citare il grande Achille Campanile, Metz, Mosca, lo stesso Giovanni Guareschi, del quale sono riuscito a ritrovare tutti i volumi originali, cioè una passione per l'umorismo che pian pianino ho cercato di coltivare e che poi si è risolta tutta quanta in questo compendio umano di umorismo. E lui la dice così, ma per non dire ridicolo, insomma, ecco. Benissimo, allora noi continuiamo con l'ascolto di un altro pezzo del vostro lavoro, un vostro lavoro targato 2000, e quindi c'era prima della televisione, era il titolo del vostro CD, del volume numero 6 porta il titolo. Sì, quella è una numerazione che poi in realtà si riferisce a una seconda edizione che è stata fatta dall'associazione Soraimar, che è un'associazione che così si rivolge anche ai migrati veneti all'estero, Soraimar. In realtà l'edizione prima appunto si intitolava semplicemente Prima della televisione, e quindi non aveva questa numerazione e non aveva neanche, come dire, la dicitura canzoni d'autore, che un po' ci imbarazza, ecco, perché gli autori sono persone serie. Certo. Noi abbiamo dimostrato, mi pare, che seri non lo siamo, quindi accettiamo di buon grado questa... Ribadisco. Dicitura. Parla partita. Vabbè, allora ci ascoltiamo questa Prima della televisione e dopo torniamo a commentarla insieme qui a Blu Radio Veneto. A un certo momento gli arriva da Ea la televisione, quella magica finestra luminosa verta sul mondo, e subito l'aveva messa la sora sul trespolo all'altezza del sacro cuore. Mi ricorda che a mamma l'aveva fatto le tendine perché non ci appesse a polvere, e così ogni sera era come verso un teatrino. E poi la capusa parsora, la gondola di Venezia, coe lampadine. E a fotografia dei miei fratelli in guerra, coe abea, coa cornice di madreperla. Ma prima di sentarsi a guardare la televisione, l'andea a cavarsi attraverso e a mettersi a posto i cavei, perché la diceva che quei là dentro, ne vedea. E quante volte non se ne andati né altri fioi a curiosar partadrio, per cercare da capire come che fea a star che dentro in tacchia scatola così piccola tanta gente. scure le sere, nere come il carbon, e le strade deserte con le stepar lampion. E se stava là in staia, veci femmine e fioi, se parlava di tutto, se curava fagioi. E coi occhi sgranai si ascoltava la storia, che poi non al contava quea della vacca Vittoria. Ma se arriva, ma se arriva la TV, la se arriva da Deboto, e tutto il mondo è sempinza là dentro quel caseotto, e quanta gente che parla, mi non ho ancora capito, com'è che astaga là dentro, ma guarda lo parda Dio. Arriva la TV, se galotto l'incanto, così che adesso in famiglia parliamo solo ogni tanto, ormai la fa da parola, messala in alto in cucina, e sento fio il verso bocca, il trase con una pappina. Arriva la TV, tasi boccia che ho ascoltar mai. Tony, gira che scominzia Beautiful. Ma va remengo ti erigi i cartoni, mamma. Ormai la fada parola, messala in alto in cucina, e sento fiol verse bocca, e il tasi con una pappina. Aia, ma perché uffa? Gerascu le sere prima della televisione, ma per chiarirsi le idee ne bastava un lampion, anche al nono el s'ha perso drio sto nuovo filò. Non conosco i nevodi, fiabe non che ne so. E coi oggi sgranai non si ascolta più storie, né per te, né per te, e né altre memorie. Ma se arriva, ma se arriva la TV, piena di brave persone, se lo facen come ori, ne par d'esser demone. E quanta gente importante se vede in televisione, che basta 5 minuti per far famoso un coio. Se arriva la TV, a se arriva la Devoto, e tutto il mondo è sempinza là dentro quel casseotto. E quanta gente importante se vede in televisione, che basta 5 minuti per far famoso un coio. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E quindi abbiamo raccontato del prima della televisione e poi di quello che è successo con l'avvento della televisione nelle case. E prima c'era questo clima così disteso, dove tutti si stavano in un unico ambiente per consumare meno, soprattutto nelle sere invernali, quindi un'unica luce e 1000 partecipanti alla stessa, alla stessa tavola, dove ogni tanto compariva qualche persona nuova, in questo caso il fidanzato di lei, perché lei ancora non poteva andare dall'altra parte, e che doveva assorbirsi anche le storie degli altri che pur non interessavano. E quindi vabbè, sono storie di altri tempi, adesso si agisce in altra maniera. Parlando però, anche... sì, prego Augusto, se te mi permette, questa canzone qua, ecco, una roba volevo dire che ci sono due elementi innanzitutto che svelano che questa canzone è datata. Sì. Il primo elemento sono le nostre voci, si è sentito che le nostre voci, insomma, sono giovanissime. Giovanissime. Da Zecchino d'Oro. Da Zecchino d'Oro, sì. Quasi. Il secondo elemento, la presenza di, ecco, figure quali quella del buon Mike Bongiorno, così. Allegria. Esattamente. Sì. Ma ecco, questo per dire, è una canzone che è stata fatta parecchi, parecchi anni fa. Prima quindi dei reality show, prima di queste trasmissioni particolari, prima di questi bombardamenti pomeridiani, così. Quindi ecco, io ti sono molto grato per averla fatta sentire questa sera, perché la considero purtroppo una canzone di grande attualità. Certo, assolutamente, dove i tronisti sono i rintronati, non c'è, ecco, i rintronisti, bravo. Sì, eccolo qua. Anche questa scrivi altro gettone, sia stasera ti stai arricchendo. Vabbè, vi scriverò anche un testo, perché Augusto ha la capacità, insomma, è un veggente. Sì. Vede prima. Augusto ha detto una cosa prima, Attilio, molto interessante. I testi sono importanti, però se non ci fosse la musica è fondamentale. L'arrangiamento che ha fatto in questo pezzo il nostro chitarrista è stato straordinario, perché c'era l'introduzione da parte di Attilio e poi la musica nel sottofondo, la musica dava proprio là alla parola. Giovanni Buoro, l'angelo Branduardi della chitarra. Esattamente, anche dei capelli. fagli una fotografia. Sì, allora. Ecco, poi a proposito di fotografie, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che questo non è solamente un programma da sentire, lo si potrà vedere, perché durante la trasmissione sono state scattate alcune foto e poi tramite il nostro sito internet bluradioveneto.it, nella pagina dedicata ai tiratiracche, ci sarà un link per entrare nell'album di fotografie scattate in questa serata, per cui si potrà vedere l'Augusto, l'Attilio, Gianluca, Giovanni. Sono preoccupatissimo. Sì, è preoccupato anche Maurizio, avete visto? Sì, effettivamente. Ma sai, Alberto che fa le fotografie, positivo. Facci belli! Assolutamente, c'è il Photoshop. Se lo sapevo mi facevo la barba, magari. Ma stai benissimo così. Vabbè, no, stai bene, veramente. Guarda. Te lo dice lui, cosa fa? Dite voi. Sì. Perfetto. Allora, diciamo, possiamo continuare, visto che abbiamo preso bene il ritmo, con un'altra canzone che arriva dal cuore delle vigne, perché prima c'è la testa, poi c'è la coda, rimane il cuore, come recitava un grande esperto di grappe. Sì. Ve lo ricordate, no? Sì, sì. Esattamente, ed è una canzone come dire, che si rifà potremmo dire a piccoli esercizi di corruzione nostrana, dove si riusciva comunque a farla franca, quando la grappa non è mai stata una concessione libera, no? Nelle nostre terre, però si sa che in anni passati i nostri contadini, certamente con la zarpa, la vinaccia, non è che la facessero solo concime, no? E la intassavano ben schiacciata nei bidoni, poi quando era il momento giusto. Ma la curiosità è che per fare questa grappa si mettevano in posti sconti, distanti da casa, tant'è vero che la grappa assumeva dei nomi diversi proprio a seconda dei posti dove veniva fatta o dove veniva nascosta. Noi, girando così le nostre serate nel Triveneto, abbiamo trovato la grappa de campo, grappa de cane, grappa de fosso, grappa de troi. Che cos'è? Non pensare male, non è una parolaccia, grappa de troi. Sì. Il troi sarebbe lo stradone che conduce al campo. Dalle nostre parti la chiamano graspa de baro. Ed erano bravi a nascondersi, ma a volte la nascondevano così bene, ma così bene, che dopo non si ricordavano neanche più dove l'avevano nascosta. Infatti ogni tanto Evache veniva fuori imbriaga da staga, oppure, no? Succedeva di questi inghippi. Però nella canzone esprimiamo il concetto. Bene, allora questa è la nostra graspa de baro. 1, 2, 1, 2, 3, 4. e mattina Piero fa la sollevada con la sarpa su in cantina del bidon ben impaccata. E le impreste prese pronte che faremo in abbondanza, meglio mettarsi alle sconte che non arriva la finanza. Brusa sotto la fassina, boia e pigna, tonde rame, giossa ben la serpentina, se le smente la fame che lavoro te facciavo, che sto viver costa caro, la soddisfazione a cavo, bevaro graspa de paro, bevare graspa de paro. Testa, ma che ciara, ma che buona, solo il cuore al fine resta, che anche il prete ne perdona. Giosse limpide che casca, meglio ancora del rosolio, impinirgene la vasca, fatta in barba al monopolio. Al profumo non si afferma che col vento lui si espande, così arriva in caserma sotto il naso al comandante. Ehi che capita, le schiena in borghese i finanzieri, sana damigiana piena, un malo pronto coi piceri. E sullo cerchi, brigadiero, grazie na zona in servizio, il paslogava sa il bicer, si sapeva del servizio, ben verse, solo un goccio, se vi stende lei, le pare, e sa che sbalava e oggi, pregustando certe pale. Non si sta per corruzione, tanto manco par creanza, ma con per le butiglion se sparì dalla finanza. Che lavoro te facciavo, che sto viver costa caro, la soddisfazione me a cavo, bevaro graspa de paro, bevarenga spade paro. Bevarenga spade paro. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Vino da barile, graspa da baro in questo caso. Allora, i Tira Tira che sono qui con noi a Blu Radio Veneto, grazie che ridete sempre delle mie battute. Ma sei straordinario, guarda. Sì, è vero. Sinceramente, se vuoi far parte del nostro team autori. Sì, no, bevete troppo. No. Se dovevo che te venimo a vedere, sì, non c'è problemi. Sì. Ok, dove? Dove che te dovevo? A Zoo. Ah, no, no. Vabbè, allora, no, mi metto una barzelletta, ma non è questo il momento. Allora, i Tira Tiracche con la graspa da baro, questo è un pezzo che si può gustare anche all'interno di quello che è il CD che state promuovendo in questo periodo, quindi Cren, canzoni che si sentono anche nel naso. Poi ci sono altre 13 canzoni oltre a queste, alcune le abbiamo sentite, alcune solo commentate in generale, perché appunto c'è un po' una descrizione di quella che è la società. E quella che mi ha attirato in più tra tutte le canzoni è Tita e Berta, una specie di Dedalo e Icaro moderni, sì, in questo caso. e quindi si parla anche un po' di solitudine in queste canzoni, si parla anche un po' di voglia di fare, a volte di strafare, ma poi come sempre ci si trova in braghe de tea, come si dice, no? Quindi allora noi proseguiamo. Musicalmente è un po'. Posso dire? Sì. Prego, prego Maurizio. Un po' alla Paolo Conte, cosa dite? Pensavo a Bob Dylan in questo momento. Quando tu mi hai chiesto, diciamo, gli artisti. Non hai citato Paolo Conte. Non ho citato Paolo Conte perché è venuto in un secondo momento, ma c'è anche lui, senz'altro. C'è sì, lui, ma, e ti dirò, da lontano. C'è anche suo fratello. Anche se Giorgio fratello. Giorgio, è vero, sì. Che pochi citano, invece. Non... Perché Giorgio Conte ha musicalmente ha delle soluzioni molto interessanti. Mi piace tanto, non solo musicalmente, naturalmente anche come te. Ricordiamo Una giornata al mare, la cui musica è proprio di Giorgio Conte, esattamente, sì. Perfettamente. A proposito di ricordi, allora, visto che stai parlando di quest'ultimo disco, volevamo io e Attilio ricordare e salutare anche gli altri musicisti che fanno parte del nostro gruppo, sì, e che hanno suonato in questo disco, cioè il contrabbassista Moreno Bettarello. Ciao Moreno. Ciao Moreno. Ciao, ciao. Vien trovarne che è un tocco che non si vede, sì. Poi il fisarmonicista e flautista Mauro Fiorin. Ciao Mauro. Ciao Mauro. Adesso invece suona con noi il contrabbassista Andrea Zulian, che vedremo anche domani sera. Domani sera, se ci permetti un po' di pubblicità, prego, possiamo, prego, farcela. Prego, domani sera saremo a Motta di Livenza. Motta di Livenza è il Festival del Viale, un bellissimo festival tematico. Ha come tema la riscoperta della terra, il legame dell'uomo alla terra. Ci sarà la proiezione di un cortometraggio, un bel filmato interessante. Che è stato presentato anche al Festival di Venezia. Sì, al Festival di Venezia, girato da una nostra conterranea, e si intitola Terra Pustota. Dopo questo filmato ci saremo noi a commentare con le nostre canzoni ciò che vedrà il pubblico domani sera. Vogliamo sfatare sempre una situazione particolare: Motta non è dove si producono i panettoni. No. È un paese che si trova lungo il Livenza. Sì, è un paese che si trova lungo il Livenza, si chiama Motta di Livenza appunto, ed è molto famoso, vabbè, per la sua storia, ma per la presenza di un santuario mariano. Sì. Augusto, ci sta ascoltando da Parigi Terry Lee Hale, con un nostro amico, un grande chitarrista, un musicista che ha suonato anche recentemente qui da noi, ci sta ascoltando da Parigi stasera. Beh, lo salutiamo. È un grande onore. Vabbè, lo mettiamo subito in contatto con la Giovanni. Sezione chitarre. Lo salutiamo caramente, Terry. Benissimo, allora abbiamo parlato del presente, abbiamo affrontato il passato, il passito come si diceva prima, adesso c'è già un qualcosa che bolle in teccia o in pentola. Sì, qua. Come teccia, dicevamo teccia, prima, bolle in teccia, hai fatto bene perché stai parlando, immagino tu ti stia riferendo al nostro progetto nuovo dialettale che si intitola, come dicevamo, Se il mare fosse del Tokyo. Sì. Ecco, lì abbiamo voluto addentrarci, ma appena appena, in maniera velata, su faccende, ecco, non dico politiche, ma perché è una nostra scelta quella di non fare satira politica, ma certamente faccende sociali interessanti che ci coinvolgono, insomma, in un momento così difficile. Che è anche difficile non riuscire a parlare di certi argomenti in qualche maniera, insomma. Certo, allora parliamone. Abbiamo allora, fatto un po' i conti con questa evoluzione, o se vogliamo dire involuzione, che ha riguardato le nostre terre, il nostro ricco nord-est opulento, che fino a poco tempo fa faceva un po' da locomotiva, e purtroppo adesso si trova in situazioni difficili. Però una riflessione va fatta, insomma, va fatta certamente. La crisi ci ha messo in questa situazione in cui ci troviamo, ma bisogna un po' fare i conti anche con certe scelte non sempre felici, forse fatte in passato. E adesso bisogna fare i conti con quanto ci si ritrova tra le mani. Noi abbiamo cercato di riassumere questa situazione con una canzone che si intitola El salto de qualità, perché non tanto tempo fa sentivamo spesso e volentieri questa espressione dalle nostre parti: bisogna fare il salto de qualità. Il salto de qualità, puntar sempre più in alto, ancora più in là, perché il merca pretende, esa spieta, e chi non si difende, il restarà ciava. Bisogna farsi strada, son desburtoni, bisogna farsi largo, coi comedoni, ma vuole far che caso, non serve per pietà, de quel che sbatte il naso o venga a schinzare. se la legge dea foresta, ma quasi tutto desbosca. Quattro froschi ormai ne resta e un piatel de pacaia da spartirsi con creanza e chi non s'è più abituato. Coghe pronto e ha la panza e la pointa il tucciarà. E son de fare il salto de guaitan. Partera sull'asfalto se chi se ga trova e come una scoresa se ga desfà la fabbrica l'impresa e il SUV ven a compra ma passa a far la piazza pieretto col trattor con caro de boazza sinti che buon odor che sveglia la memoria e l'aria disinfetta e sotto i capannoni se i campi che sveta se la legge dea foresta ma quasi tutto desbosca quattro froschi ormai ne resta e un domani che non si sa da tirarsi sulle maniche e lo sa ben chi guarda in rio se più giorni che lugane e anche un voce lo ha capito se la legge della foresta ma quasi tutto desbosca quattro froschi ormai ne resta e un piatel de bacalà da spartirsi con creanza e chi non si è più abituato coghe pronto e ha la panza la poenta il tucciarà la poenta il tucciarà la poenta se il mare fosse de tuo giù. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato una traccia che fa parte del futuro dei Tira Tiracche e il Salto de Quaità, la traccia numero uno che apre questo nuovo lavoro che tra quanto sarà in distribuzione? Augusto, Attilio, Giovanni, Gianluca. Qua facciamo parlare Giovanni che ha detto sì. I lavori. In questo... Giovanni. Se posso dire una cosa, prego. Prima Giovanni ha curato quello in dialetto e io le musiche di quello in italiano. Sì, sì, l'avevo. Sì, sì. Sì, sì, l'avevamo detto, ma hai fatto bene a ricordarlo nuovamente. Così adesso diciamo anche i tempi di uscita di entrambi, se sì, permetti. Quindi sì, prego. Prima uscirà questo in dialetto. Sì. Beh, sarà per metà ottobre probabilmente, perché adesso questo che avete sentito è in anteprima, dobbiamo ancora finire la parte di mastering, quello che si dice così, quindi l'avete sentito anche un po' grezzo ancora. Bello così, bello grezzo, sì. Va bene. E poi proprio il tempo necessario per fare le copie, le stampe, queste cose, quindi probabilmente per metà ottobre. Quindi per metà ottobre allora aspettiamo che sul sito internet di Tira Tira che ci sia la pubblicità legata a questo nuovo lavoro. A proposito, ricordiamo quello che è il vostro sito internet www.tiratirache.it e attraverso questo sito appunto accedete a tutte le informazioni che riguardano la musica di Attilio Augusto. Poi siamo anche su Facebook. Sì, quindi sì. Cliccate, mi piace, mi piace. Mi piace, benissimo. Sì, quindi. Allora Gianluca, tu invece se volevi dirci un attimo del... Ma nulla, quello in italiano è ancora tutto in lavorazione, quindi siamo a dei semilavorati che... devono che saranno trovare, pronti devono trovare un raffinamento diciamo insomma. Fra qualche mese dai. Due o tre mesi insomma due o tre mesi. Allora noi mentre aspettiamo questi due o tre mesi direi che ci viene autorizzata anche la possibilità di di ascoltare un altro pezzo di questo lavoro, sempre da Se il mare fosse The Tokyo, in sì. questo caso ci ascoltiamo un altro pezzo che si intitola Il Vitalizio. Ed è di attualità questo pezzo. Assolutamente di attualità. Ma sarà un vizio, ma voglio avere il vitalizio, come lo caccia pa Maurizio, che tempo fa sa candidare, come niente, perdeva posto da quell'ente, qualificata incompetente, lo ha il partito ricicla, onorevole, poi te chiamara. Ogni idea balzana, senso acquisirà, sente l'intervista, sbrissa il congiuntivo, di non far che caso, e va via, guaivo, sol par sfizio, ma incrementemo il vitalizio, e il loga caio e il loga tizio, perché non posso averlo mio. Vinso un terno, se solti in botta sto governo, andiamo fuori dall'inverno, e che se c'ha anche il sociale, dentro te il palazzo, quanto me diverto, la buvetta, la mensa, il barbiere severto, poi l'assegno in bianco sarà garantito, se parla fiducia, vendo il metadrio, se un inizio, ma parto ben col vitalizio, chi se ne frega del giudizio, ma cosa se la dignità, onore. Poi te chiamerà ogni idea balzana, senso acquisirà, sente l'intervista, sbrissa il congiuntivo, di non farne caso, e va via, guaivo, che servizio, aver ceduto l'orifizio. Ancora politico novizio, un sogno di felicità in ospizio, conserverò il mio vitalizio, che sarà ancora più redditizio, coi anni ben rivaluta, se un inizio, ma parto ben col vitalizio, chi se ne frega del giudizio. Ma cosa se la dignità, ma cosa se la dignità, ma cosa se la dignità. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Un'atmosfera jazz anche un po' brasiliana, se vogliamo, ad accompagnare questo vitalizio, a cantarlo e suonarlo sono i Tira Tira, che è ancora ospiti nel nostro spazio di Blu Time Live per la presentazione dell'album che si intitola Cren, canzoni che si sentono anche nel naso, per cui ci vorrebbero anche delle naso cuffie per yes. assaporare bene questi argomenti che proponete. Allora, abbiamo già capito la storia del vitalizio, legata un po' a chi prende in continuazione danaro, a volte solo per, come dire, una ruota continua che mai si ferma, e alcune volte qualcuno protesta, dice: ma perché loro sì? Perché? Perché? Una bella domanda. Vabbè, vuoi rispondere adesso? O la risposta è noi meglio no. Fra le tante cose che fa Augusto, sì, c'è una cosa interessante che adesso ci vuole spiegare, perché molto, sì, è molto particolare, vero Augusto? Sentiamo, sei Augusto, stato uno dei primi che ha fatto questa cosa. Sì, l'hai scoperta nelle, l'ho scoperta, mie note, sì, nelle, le tue note biografiche, sì. Sì, c'è questa passione che ho da più di 30 anni e lo considero un forte compensativo, perché quando uno va a fare il pagliaccio nei palcoscenici in giro così per la regione, poi a un certo punto deve ritrovare dei momenti che compensano, sì. Mm. E niente, ho una grande passione per la pittura sacra bizantina, per le icone. Icone, esatto. Ecco. Adesso se ne vedono molte, è una pratica che si è molto diffusa, ci sono tante scuole, tanti corsi. Io ho dovuto fare un bel po' di fatica all'inizio, 30 anni fa, quando addirittura non si trovavano neanche, purtroppo, pubblicazioni, non tanto per quanto riguarda la parte teologica o la parte così della simbologia contenuta nell'iconografia, quanto per quella parte che a me interessava, quindi quella tecnica, no? A me interessava, non che non mi interessasse anche l'altra, perché ovviamente uno quando apprende un'esperienza la deve apprendere ad ampio raggio, ecco. Così ogni tanto mi ritiro nel mio laboratorio dove con il mortaio e con le pietre dure, preziose così, mi faccio i colori, mescolo l'uovo come si faceva un tempo, non tanto così per posa o per modo, perché effettivamente la tempera all'uovo ancora oggi, a mio parere, è una delle forme di pittura, uno dei materiali per la pittura ancora insuperati per la resa, per l'interazione che ha con la luce. Scusa, volevo chiederti che uovo preferisci, gallina, anatra? Guarda, sai che paradossalmente anche gli antichi maestri già in anni proprio lontani lontani dicevano che si dovevano prendere le uova di città, perché quelle erano meno gialle. Ah, quindi interferivano, sì, meno con il colore originale. Io vorrei aggiungere una, sì, cosa, che ogni tanto lui mi prende per mano e mi porta a fare un giro in Russia. Sì. Ne ho presa una stomacata di icone e di uova di città che ho imparato lì a dire delle cose in cirillico. Sì. Lui non ha capito, ma lo mandavo in quel posto e ne potrò giudicare. Ecco, ho voluto fare il birignao russo a proposito di segreterie telefoniche. Sì, a proposito, sì, sì, vogliamo sentire qualche segreteria telefonica alla fine? E anche per introdurre. Allora, sì, fai, sì, la segreteria telefonica, dicevamo, russa dei tiratirache. Prego. Suona il telefono. Dashbot, niente, drogi, muoio, tira, tira, chi, bip, dashbot, te, taccio, risponiesta. Benissimo. Non allora, ha capito nessuno, ma mi sono capito io. No, bello, bello, eccezionale. Allora, ricordiamo anche agli ascoltatori che questa trasmissione che avete ascoltato in questa serata è possibile riascoltarla tramite il nostro podcast che inseriremo nel breve nella pagina riservata ai tiratirache all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, quindi basterà cliccare per vedere le foto e per riascoltare quanto detto e fatto durante la trasmissione. Allora, noi ringraziamo i tiratirache per essere venuti qui, per averci deliziato con la loro presenza, con la loro musica. Grazie, con il loro modo. Noi ringraziamo voi invece per averci dato questa simpatica opportunità di farci conoscere anche al pubblico di Padova e non solo. E siamo stati davvero bene con voi, grazie. Bene, allora salutiamo Gianluca Chiarini alle tastiere. Buone notte blu. Grazie. Buonanotte, buonanotte Gianluca, poi ancora Giovanni Buoro alle chitarre. Buonanotte a tutti, grazie. E poi ancora Augusto Prosdocimo. Ciao, scusami, e buonanotte a tutti, sì, e grazie. E Attilio Boccalò, eccolo. Buonanotte a tutti, ciao. Però non pensate di andare via senza prima averci regalato un altro adesso pezzo. Si scopre anche cosa stava sotto alla segreteria telefonica russa. Benissimo, allora noi vi lasciamo i microfoni aperti, per cui permetteteci solo di salutare gli ascoltatori per essere educati. Allora, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è davvero tutto, quindi buon proseguimento delle trasmissioni di Blu Radio Veneto. Dopo di noi ci sarà Alberto Prisco, che ringraziamo anche per l'organizzazione artistica di questa sera. Alberto Prisco che condurrà la trasmissione di Rock Wave nello speciale della classifica, quindi vi lasciamo i microfoni aperti. Buonasera a tutti e buon rientro, carissimi tiratirache. Tira il vento, torna la bufera, mieni. fuori anche stasera, questo vento che mi scoverzi e ceppa, mi vuoi bere all'ostaria di Peppa. A casa ciocco che torno anche stasera, non mi ferma il freddo neanche alla bufera, me mogliere non la sei più sincera, e me fiosa meia sempre più al postino. Non torna tutte cose a posto qua, non niente, E passa i mesi, cambia le stagion, me mogliere la me va di ribalton, e me fiolga ciappana piega strana, e va in giro coi cotto e tesso, mamma, mamma mi non so, sarà moda anche questa, non so, no. So, sorea, che brutte compagnie, ogni sera su e su pel marciapie, e anche il can non conosce più i paroni, l'altra notte e m'avanta i marroni, e a casa c'ho che torno anche stasera, vado in bici o forse c'è poi la corriera, me moglie non la sei più sincera, e anche il canso meglio sempre più al postino, ti Bobby non te mi conta giusta, no? Niente. E vita dura quella dell'operaio, far fatica pa' un tocco de formaio, ma fra un mese mi tiro la pensione. Ehi, gufi mio, che se c'ha vanca il parone, e credeti. Governo che ha fatto la riforma, quei dell'Inps megadito Piero torna, che a pensione te la daremo fra 3 anni, riempendo brutti fioi dei cani, e a casa ciò che torno anche stasera, vado in bici o forse c'è poi la corriera, e mogliere non la sei più sincera, e anche ella somiglia sempre più il postino, e a casa ciò che torno anche stasera, ma in mia ciovala bici ho perso la corriera, e mogliere non la sei più sincera, e anche mi somiglio sempre più al postino, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Di festa in festa. Gli appuntamenti in Veneto. Gli appuntamenti in Veneto. Spettacoli, mostre, sagre ed eventi in Veneto. Alle 12.05 da lunedì a venerdì, in replica alle 17.05 e anche in podcast. Di festa in festa.